Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Sempre più automobili sono dotate di connettività e in futuro, un futuro non lontano, lo saranno tutte. Ecco perché ad Auto Promotech, la fiera che riunisce a Bologna gli operatori dei servizi al mondo delle quattro ruote, ci si è domandati in che modo tutto questo impatterà il mondo delle autoriparazioni. Ne è uscita un'idea di Officina 4.0 che, esposta sotto forma di tour virtuale, ha rappresentato anche una delle attrazioni di maggior successo di questa kermesse. Di che cosa si tratta? Beh, ho incontrato uno dei principali promotori della iniziativa e allora sentite com'è andata. Eugenio Razzelli, tra i coordinatori del progetto Officina 4.0, un lungo passato, diciamo, nel mondo dei motori, no? Ex amministratore delegato di Magneti Marelli, se ricordo bene, fino al 2015. Allora, che cos'è questa Officina 4.0? Abbiamo tutti avuto familiarità col problema di dover riparare l'auto. Mettiamo che io abbia un problemino con l'automobile, però possa godere di questa Officina 4.0. Che cosa mi succede? Ma guardi, noi abbiamo cercato di evidenziare che il mondo dell'auto affronta una rivoluzione con soprattutto due tipi di driver. Uno è la digitalizzazione, la gente va in web, fa ricerche, eccetera, eccetera, e l'altra è la connettività, perché nella famosa IoT, Internet of Things, la cosa più grossa che abbiamo in giro sempre da connettere è l'automobile. Oggi dalle fabbriche di auto nuove magari ne escono un 30% collegate. Al 2025 si prevede che il 100% sarà collegato in tutto il mondo. In Europa c'è una legge che dal 18 richiede l'emergency call. Quindi una connettività di base che però sarebbe stupido poi non sfruttare. Non ecco. Boh. Chiaramente quando uno dice nel mondo si vendono 90 milioni di automobili all'anno e dice ma quante ne girano? 1.400 milioni. Quindi è anche interessante capire se anche il parco circolante si può connettere. La realtà è sì. Oggi uno si può comprare un aggeggio che viene chiamato dongle con la SIM per connettersi o senza SIM e si connette attraverso il suo telefonino e viene prodotto da grandi società specializzate nell'automotive. Quindi quando abbiamo l'automobile connessa possiamo cominciare a pensare quali servizi fornirgli. Ecco, perché una delle cose che passeranno attraverso questa connessione sarà una specie di flusso continuo di informazioni sullo stato di salute dell'automobile, che è qualcosa di nuovo. Normalmente noi l'automobile si rompe, a quel punto andiamo dal meccanico, mentre qui potrebbe succedere qualcosa di molto diverso. Sì, detto che i dati serviranno per le assicurazioni, perché l'assicurazione leggerà il mio driving style e deciderà come mi vuole assicurare. Detto che ci farò passare Spotify o tutte quelle robe lì, quando arriverò all'aspetto di manutenzione, prima di tutto potrò leggere le spie che normalmente ho sull'automobile da lontano e quindi cominciare a interpretare se accesa la spia dell'olio lo devo veramente cambiare? Quindi questo è il primo vantaggio, poter vedere a distanza degli interventi che sono già in qualche maniera previsti dalla diagnostica interna dell'automobile. Però la cosa più interessante è che potrò cominciare a, diciamo, macinare milioni di dati, perché avrò tutti i parametri dell'auto in tempo reale, e costruire intelligenza artificiale o quasi dei big simulation database dove anticipo l'accensione della spia, ma soprattutto anticipo problemi che sappiamo le spie non ci dicono, perché se mi si rompe la pompa diesel o se mi si rompe la batteria o se mi si rompe, ci sono tutta una serie di eventi che capitano e quindi con la manutenzione predittiva cercheremo di ridurre, diciamo, a zero teoricamente le fermate inaspettate dell'auto. Quindi avrò due vantaggi: riduco le fermate inaspettate a zero e tutto quello che è aspettato lo potrò gestire in maniera intelligente. Mi arriva il messaggio, prenoto quando, voglio l'auto sostitutiva, non la voglio, mi dicono a che punto è l'intervento, vado a prenderla, pago l'intervento. Accetto il preventivo che mi viene fatto, certo, magari in modo anche più trasparente, perché la connettività consente anche questo. Alla fine do una customer satisfaction index stile Booking o quelle robe lì. Quindi questo mondo è veramente dietro l'angolo. Ecco, invece come cambia il lavoro nelle officine, come cambia dal punto di vista del mondo professionale, che qui tra l'altro l'Autopromet è rappresentato in vista di questi cambiamenti a loro volta? Noi diciamo che in un mondo di IoT, di dove tutto è connesso, chiaramente anche le officine devono essere connesse e iperconnesse, tutte le loro attrezzature. E quindi, per esempio, quando arriverà per l'intervento X la vettura, in maniera automatica tutte le attrezzature necessarie per quell'intervento saranno presettate. Magari il pezzo di ricambio sarà già arrivato. Il pezzo di ricambio avrò già visto se ce l'ho, se non ce l'ho, e quindi l'avrò già ordinato. E sarò supportato nel fare il mio lavoro da quelli che chiamiamo wearable, no? E quindi ci avrò gli occhiali, che siano Microcom, Smart Glass, e tutte cose quelle cose lì. E quindi ci si può immaginare che in un certo numero di anni anche le professionalità cambino, no? Torniamo in studio solo per salutarci, ringraziare ancora una volta il nostro ospite Eugenio Razzelli e darci appuntamento a domani. Buona serata!